In attesa, ma non troppo, almeno fino a qualche anno fa, quando l'ultima neve d'aprile in montagna, a stagione conclusa, era la normalità. A Tarvisio è stato piuttosto lo sbalzo della temperatura a sorprendere, quando dai 25 gradi del weekend passato si è arrivati ai 10 di ieri mattina, fino allo zero dell'ora di pranzo, quando in paese sono scesi 10 centimetri di neve. 15 a Camporosso in Val Saisera, 25 centimetri di neve invece a Sella Nevea, 35 a Pramollo, 40 salendo ad alta quota sul Monte Lussari e al rifugio Gilberti. Non nevicava, tranne un episodio poco consistente, a marzo da gennaio. Ora le temperature sono scese, ma di poco rispetto alla norma. L'anomalia, conferma l'ARPA FVG, era rappresentata dal caldo dei giorni precedenti. Scendendo, il paesaggio mostra i contrasti della neve sui prati a quote più basse, fino ad arrivare in pianura dove l'ondata di maltempo non ha provocato danni di rilievo all'agricoltura. In particolare nella Bassa Friulana la grandine caduta è stata di piccole dimensioni e nella notte la temperatura non è mai scesa sotto lo zero. Tarvisio, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.